Arriva Jerry Paper qua su Radio Città Fujiko 103.1 FM a farci compagnia con Ciolla. Io sono Benny e oggi vi presento, anche stavolta, come settimana scorsa, un po' di nuove uscite. E sono onesta, lo faccio perché c'è bisogno che il nostro caro direttore Curru, Alessandro Canella, impari da noi giovani un po' di musica che secondo lui non esiste più, perché si sa, no, quello che dicono i vecchi: la buona musica non è più quella di una volta, e ce n'è molto meno e non ce n'è più, e si stava meglio quando si stava peggio. Io sono d'accordo, però ci sono effettivamente tanti brani nuovi che escono costantemente, che sono effettivamente meritevoli di ascolto, così come in generale anche poi gli album. Perché un'altra cosa che si pensa di noi giovani, e che probabilmente è anche vera in generale, è che stiamo smettendo di ascoltare gli album per intero, da cima a fondo, come sarebbe giusto fare, come si faceva prima, in favore delle playlist che troviamo ad esempio sulle applicazioni come Spotify o Apple Music, eccetera, e quindi ci attacchiamo più al singolo brano, diciamo, e al singolo, se mi permettete di dire così, piuttosto che all'album effettivamente in generale. Quindi abbiamo iniziato con Jerry Paper perché è uscito a maggio il suo nuovo album, il suo secondo album, che si chiama Abracadabra, quindi un nome curioso sicuramente, così come è curioso lui come personaggio. Infatti sicuramente è Abracadabra un album molto fantasioso e molto sui generis, nel senso che è un ascolto leggero, piacevole, divertente, che però mixa anche suoni jazz, suoni psichedelici e anche il pop, quello che viene registrato, no, magari a 15 anni nella cameretta. Non che ci sia niente di male di registrare qualcosa a 15 anni nella cameretta, anzi, questo per dire che magari in certi momenti si parla di un suono o di testi che vengono spogliati di ogni tipo di presunzione di voler fare il disco dell'anno. Ad esempio, sicuramente lui non voleva fare il disco dell'anno, e questo non sarà il disco dell'anno, ma un disco molto divertente che ti permette di passare il tempo, come ho fatto io effettivamente. Tra l'altro, dicevamo appunto un tipo sui generis, così come anche un album sui generis. Infatti leggevo che l'ultimo tour di Jerry Paper è stato nel 2019, o è finito comunque nel 2019, e si chiamava I am begging you to come to these shows, cioè vi prego di venire a questi show. Quindi insomma, direi non c'è bisogno di presentazioni per Jerry, quindi io ve la butto lì, ascoltatelo. L'abbiamo già ascoltato in realtà, questa l'abbiamo appena detto, era Ciolla, ma comunque direi di andare avanti con nuove uscite e nuovi album. Arriviamo in Italia e parliamo di Levante, perché il 7 luglio, quindi praticamente adesso, no, due giorni fa, è uscito il suo nuovo singolo che si chiama Sirene, che lei definisce un altro canto come sottotitolo del brano. Un nuovo singolo che mi chiedo se anticipi o meno un album, anche perché il suo album è uscito da pochissimo, il suo ultimo album intendo, oppure può darsi anche che sia stato il lockdown e la situazione coronavirus in generale a confondermi sui tempi, che in realtà si sono molto dilatati, ma io con la testa sono rimasta probabilmente ai primi di marzo, quindi in tal caso mi dispiace. Ma comunque adesso, al di là di tutto ciò, abbiamo Sirene. È anche uscito il video, che è un video girato in uno spazio irreale, surreale. Lei bellissima, divina come sempre, non che sia necessariamente utile alla musica essere belli e essere belle, anche se sicuramente aiuta e fa la sua parte a volte. Però va detto, Levante, oltre che una brava artista pop italiana che si sta veramente facendo riconoscere ormai a livello mainstream, è anche bellissima, è innegabile. Ma adesso non farò la gaffe di quest'ultimo Sanremo, in cui facciamo un passo indietro o un passo avanti, e direi di ascoltare direttamente Sirene, quindi questa è Levante. Andavamo dentro il vento mentre in mano stringevamo sogni, solo pochi saldi, le notti a cercare buone stelle, ritrovarsi in mezzo a strane sorti. Quanto siamo storti, mi porti sulla strada verso il mare, se va male resto a piedi con te, ma decidi di non fingere che non è facile. Amore, non è tempo di castelli, stendi i desideri accanto agli ombrelloni chiusi, sgonfia i tuoi braccioli. Amore, dici sento le sirene, ma non c'è traccia di mare intorno a noi. Se vuoi facciamo un bagno nella pioggia. Servono a renderci tristi, ma noi siamo amanti. Sai ancora abbracciarmi? Ci pensi alla lista delle cose da rifare quando andremo avanti? Quando andremo avanti, mi porti sulla strada verso il mare. Se va male, resto a casa con te. E non è facile, amore. Facciamo un bagno nella pioggia, nella pioggia, nella pioggia. Amore, dici sento le sirene, ma non è più come pensi, sono Ulisse all'alba. Caro direttore, caro Curru, se stavi ascoltando prima, non ti ho chiamato vecchio, giuro. E se l'ho fatto era un modo per dire così, tanto per, anche perché sei giovane e, volendo citare Boris, hai gli anni che hai. Per favore non mi buttare fuori dalla radio, grazie. Questa era Sirene di Levante, sempre qua su Radio Città Fujiko 103.1 FM, e ci state ascoltando, o state me ascoltando, perché siamo me, myself and I, sui 103.1 oppure in streaming, come sempre su www.radiocittafujiko.it. Come l'ho scandito bene, brava Benedetta. Stiamo parlando ancora, ebbene sì, di ultime uscite, ultimi brani, ultimi album, e quindi è giusto citare, e con l'occasione fare anche una dedica, citare Devendra Banhart. Se non lo conoscete, conosciatelo. Non so neanche se si dice. Il nuovo brano che è uscito si chiama Let's See. Devendra, se lo posso chiamare per nome così, no? Come se ci conoscessimo da una vita. È un bravissimo cantautore che sta per far uscire un album chiamato Vast Ovoid, che è previsto per July 24, dicono sul sito dell'etichetta Non Such Records, quindi il 24 di luglio. Manca pochissimo, e intanto ascoltiamo questo brano qui, che voglio dedicare a Chiara. Ciao Chiara, se mi stai ascoltando, lo so che mi stai ascoltando, brava. In attesa di una puntata insieme, io e te, tu ed io, a passare solo brani carini in portoghese, probabilmente, se li hai scelti tu, o Devendra Banhart anche, ti dedico Let's See, e vediamo se riesco a venire a Bologna a fare una puntata con te, appunto. Capito il gioco di parole? Questa è Let's See. Swatting a fly with nuclear bomb, minimum eye, pattern is gone, thoughts carry on, oblivion in an aquarium of walls, filling my lungs. Let's see what's in store, let's see what's in store. Fresh off the boat. man. Woman can't vote in Vatican. Digging tunnel over a fence. Spectacular experience. Let's see what's in store. Let's see what's in store. Discovering your head, you get decapitated. And what's more, see it rolling on the floor. Recovering the thread of a broken narrative. And once more, you don't need it anymore. Can you visualize things as they are? Total guitar, company car, articulate palm of your dream and an inspiring in-flight magazine. Aunt Rita with lovely coasters in downtown Pharaoh's lair. On an ocean of incarnations, directions that go everywhere. And for a while, it was divine, in the pawn shop of everyone's mind. Mother of pearl, mouth of a cat, you were like that, you were like that. And I've never heard music before, so let's see what's in store. No, you've never done it before. Let's see what's in store. Let's see what's in store. What's in store? Devendra Banhart con Let's See, torniamo ancora a parlare di nuovi singoli, nuovi brani e di nuovi album. Torniamo anche in Italia, perché dopo Levante parliamo invece di una ragazza ormai bolognese, anche se di origine siracusana. Lei è Maru e ne abbiamo già parlato poco tempo fa per Fujiko Factory, quando è uscito il suo primo singolo che si chiamava Quechua. Torniamo a parlare di lei perché è stato appena rilasciato il 29 giugno in anteprima su Billboard il suo nuovo video e singolo anche, che si chiama Zitta, che è una dichiarazione di intenti sul voler rompere le barriere di genere, sicuramente non solo musicale ma anche sessuale. Il video è stato girato in maniera magistrale, se posso dire, dalla regista Margherita Ferri, e il video chiaramente accompagna il brano che si chiama appunto Zitta e che in realtà invita a non stare zitta, effettivamente a esprimersi, a essere se stessi e a urlare ciò che siamo e ciò che sentiamo. E adesso quindi sentiamo Maru e sentiamo Zitta. Piangere non è mai servito a niente, è un posto difficile dove stringersi le spalle è un mestiere per due. Ma non è da te, non è da te restare zitta. Morditi la mano con la testa nel divano, puoi gridare quanto vuoi. Quando pensi, non farlo troppo forte. Se fossi un treno io deraglierei. E che più forte di così non posso. Quando si spegne tutto, mentre parlo di me. Piangere non è mai servito a niente, è un posto difficile dove stringere i denti, siamo davvero tanti a tenerci questi sforzi, all'ultima goccia le cose che è meglio che rimangano in bocca. È più forte di così non posso stare in piedi e già mi Zitta è un po' una condanna, nel senso che una volta che l'avrete ascoltata, se vi succederà come a me, cosa probabile, non smetterete di cantarla per i prossimi 3 giorni, avrete questo motivetto in testa che continua eccetera eccetera eccetera, ancora e ancora e ancora. Un po' è colpa mia, un po' è colpa sua, io non me ne scuso e andiamo avanti, concludiamo questa puntata di nuovi ascolti, perché ahimè siamo quasi alla fine e è incredibile come pure stavolta, per quindi la seconda settimana di fila, non riuscirò a farvi ascoltare il brano che vi volevo far ascoltare. Vi farò ascoltare, quante volte posso dire ascoltare, la stessa artista ma non il brano che volevo, ma io non mi arrendo e ci riprovo settimana prossima. Tutto questo per dirvi cosa: è uscito il 18 giugno il nuovo album di Phoebe Bridgers che si chiama Punisher e che è già stato valutato addirittura come album dell'anno. Quindi manca ancora un po' alla fine dell'anno, però è effettivamente un album eccellente, specialmente per chi ama piangere ascoltando canzoni al buio sul materasso. Ma non fatevi spaventare perché Phoebe Bridgers è un'artista super brava e oggi purtroppo non riusciremo ad ascoltare I Know The End, che è l'ultimo brano di questo disco, Punisher, perché effettivamente qua Phoebe si è veramente sdata e ha deciso di comporre un pezzo di più di 5 minuti che è pazzesco, ha una coda pazzesca soprattutto, ma che io non riesco mai a inserire in nessuna puntata perché puntualmente finisco il tempo a forza di parlare e anche di farvi ascoltare un po' di musica. Quindi, salutandoci e lasciando lo spazio al nostro direttore con Radical Pop, ascoltiamo comunque un brano tratto da Punisher e ascoltiamo Garden Song, che è uno dei singoli, fra l'altro album rilasciato in quarantena durante le proteste Black Lives Matter, che Phoebe ci tiene a sostenere e a sottolineare, più del suo album, più dell'album stesso, infatti, che lei ha cercato di pubblicizzare il meno possibile proprio per questo motivo ideologico. Ma basta chiacchierare di Phoebe, ascoltiamo Phoebe, che è più facile e anche sicuramente più piacevole. Io sono stata e sono ancora Benny, vi mando un bacione a distanza di sicurezza anti-Covid. Se non vi piacciono i baci, vi mando un abbraccio, se non vi piacciono nemmeno gli abbracci, ci salutiamo con la mano comunque da lontano. Ci sentiamo settimana prossima e questa è Phoebe Bridgers con Garden Song. Ciao! Up on the hill, and when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a garden in the yard. Then they're gluing roses on a flatbed. You should see it. I mean thousands. I grew up here till it all went up in flames, except the notches in the door frame. I don't know when you got taller, see our reflection in the water off a bridge at the Huntington. I hopped the fence when I was 17, then I knew what I wanted. And when I grow up, I'm gonna look up from my phone and see my life, and it's gonna be just like my recurring dream. I'm at the movies, I don't remember what I'm seeing. The screen turns into a tidal wave. Then it's a dorm room like a hedge maze. And when I find you, you touch my leg and I insist. But I wake up before we do it. I don't know how, but I'm taller. It must be something in the water. Everything's growing in our garden. You don't have to know that it's haunted. The doctor put her hands over my liver. She told me my resentment's getting smaller. No, I'm not afraid of